La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. L'articolo 51 riguarda la possibilità di accesso ai pubblici uffici ed è un articolo molto significativo nella sua portata storica, perché aver affermato che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici è una grande innovazione rispetto all'ordinamento precedente, in quanto precedentemente c'era tutta una serie di lavori riservati esclusivamente ai cittadini di sesso maschile. Il caso più famoso probabilmente è quello della magistratura, perché per essere magistrati bisognava fino agli anni 40 essere cittadini di sesso maschile. Quindi la Costituzione anche qui rompe col passato e consente a tutti dell'uno e dell'altro sesso di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Leggendo il testo dell'articolo 51 dovremmo quindi pensare che la prima donna è entrata in magistratura nel 1949, cioè subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Invece così non è stato. La prima donna in Italia è entrata in magistratura addirittura nel 1964. Perché? Perché sull'articolo 51, come su altri articoli simili, si è sviluppato tutto un dibattito sul se la Costituzione sia precettiva o programmatica. Dietro queste due parole in giuridichese si nascondono due concezioni completamente diverse della portata della Costituzione. Indicare che la Costituzione è programmatica significa che si indirizza soltanto al legislatore. Quindi la Costituzione si rivolge al Parlamento e il Parlamento deve attuarla. Ritenere invece che la Costituzione sia precettiva significa che la Costituzione parla a tutti ed è immediatamente applicativa. Alla fine degli anni 40 e per tutti gli anni 50 prevalse la tesi che la Costituzione era soltanto un testo programmatico e come testo programmatico doveva essere applicato innanzitutto dal Parlamento. Per questa ragione si sono verificati significativi ritardi nella piena applicazione della Costituzione. Questo è avvenuto proprio per l'articolo 51, in quanto, abbiamo detto, le prime donne entrano in magistratura soltanto nel 1964.